24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua alle 7:18 minuti e ben ritrovati con 24 mattino in diretta fino alle 9. Siamo anche sulla nostra pagina Facebook 24 mattino, ci trovate così se siete appassionati di Facebook, siete sempre di più. Saluto anche il nostro Peter Bescapè in regia. Allora, oggi parliamo di attualità politica, la manovra è stata approvata, ci sono le nuove intercettazioni subito sui giornali, c'è lo scontro politica-magistratura, per la verità c'è da 20 anni in Italia, ma sembra rianimarsi per la vicenda dell'inchiesta di Napoli e insomma mixate tutti questi belli ingredienti, miscelate e ne parleremo dalle 8:20. Prima però, come al solito, andiamo a scoprire che cosa ci propongono i giornali in edicola. In questo giovedì 15 settembre vediamo le aperture dei quotidiani dal Sole 24 Ore, che oggi dedica un numero monografico, 32 pagine tutte sulla manovra approvata ieri in via definitiva alla Camera. Fisco, pensioni, risparmio, ecco le novità. Questo è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore. Mentre tutti gli altri quotidiani si concentrano appunto sulla questione intercettazioni, politica, soprattutto sulla vicenda di ieri, quando nel colloquio col capo dello Stato Berlusconi avrebbe tentato di mettere lì la questione necessaria di un decreto urgente per bloccare le intercettazioni. Allora ecco spiegati i titoli del Corriere della Sera. Il Quirinale dice no a Berlusconi. Per Repubblica, legge bavaglio, veto di Napolitano. E La Stampa, intercettazioni, sfuma il blitz. Per Il Giornale, la sfida di Berlusconi, con questi PM non parlo. E Libero, Berlusconi nelle mani dei PM. Mentre l'intercettazione che oggi trovate sui giornali è quella di Berlusconi che dice vi scagiono tutti, e questo è il titolo del Fatto Quotidiano, io vi scagiono tutti, così anche il Messaggero, Berlusconi vi scagiono tutti, la telefonata a La Vitola. Il Premier alla Vitola, vi scagiono tutti, anche l'apertura del Secolo XIX, mentre l'Unità si concentra sulla chiusura della Irisbus, strategia Marchionne, la Fiat chiude la fabbrica campana, capolinea, questo è il titolo dell'Unità, mentre il Manifesto manovra pesante, la Camera approva la manovra, la polizia carica gli indignati, c'è una foto degli scontri, ci sono stati anche questi, gli scontri davanti a Montecitorio ieri poco dopo l'approvazione della manovra. Allora, insomma, come vedete, gli ingredienti per un'attualità politica molto vibrante ci sono. Partiamo da altre cose, per esempio questa storia raccontata dal Corriere della Sera, pagina 29. Baby bulle, pignorate le abitazioni dei genitori. È una vicenda che Michele Focarete racconta da Milano. Di un paio di ragazze che hanno preso a pugni. 15 anni, hanno preso a calci e pugni una loro coetanea, per la verità anche un po' più piccola, di 13 anni, colpevole solo di averla guardata insistentemente, un episodio davvero grave, spiacevole, solo che finisce tutto con una sentenza che condanna in sede civile le famiglie al pagamento di circa 50.000 euro, le famiglie non hanno i soldi e dunque il giudice ha detto, visto che non le avete educate bene, vi pignoriamo gli immobili, la casa. Il prossimo 27 febbraio ci sarà l'udienza delle parti, se quella somma non verrà elargita, la casa, le case, per la verità, delle due famiglie, delle ragazzine che hanno picchiato, finiranno all'asta. Beh, è una sentenza che fa molto discutere, perché insomma, è vero che la responsabilità penale è personale, ma in questo caso per il giudice la responsabilità civile va in capo ai genitori. Non avete educato le vostre figlie che hanno fatto questo? Ebbene, dovete pagare. Se non avete i soldi, vi togliamo anche la casa. Una vicenda che per la verità è nel 2002, ma con le lentezze della giustizia è arrivata a sentenza ora. Baby bulle, pignorate le abitazioni dei genitori. Questo lo racconta il Corriere a pagina 29. Mentre su Repubblica, pagina 19, una legge approvata nella regione Veneto che fa molto discutere, asili e buoni scuola per i veneti DOC. Il PD e l'UDC contro Zaia, così discrimini i bimbi. Sapete che racconta Nicola Pellicani, prima i Veneti è lo slogan che ha accompagnato tutta la campagna di Luca Zaia, il governatore del Veneto, durante tutta la campagna elettorale. È stato incoronato con percentuali bulgare. Scrive Repubblica, con questo motto, ebbene, si è trasformato con una proposta di legge. La precedenza assoluta nelle graduatorie di accesso ad asili e servizi per la prima infanzia, buoni scuola e case popolari a chi risiede in Veneto da almeno 15 anni. È solo il primo passo, ma, racconta Repubblica, ce n'è abbastanza già per scatenare un mare di polemiche, l'indignazione di tanta parte della popolazione veneta e non le accuse di discriminazione, dall'altra parte invece dire facciamo bene perché queste proposte di legge fanno parte del programma elettorale con cui abbiamo vinto le elezioni, è una proposta non in contraddizione con la Costituzione, fanno sapere dalla maggioranza, sta di fatto che insomma suscita polemiche questa idea, asili e buoni scuola per i veneti DOC, questa è la proposta della regione Veneto. E poi, come non concludere questa prima parte prima della pubblicità con il ritorno di Lapo Elkan, l'avevamo lasciato un paio di volte con il SUV mimetico che bloccava il tram, ha bloccato un tram a Milano per 40 minuti, perché si è scoperto tra l'altro che a Milano non c'era un carro attrezzi in grado di spostare un SUV di quelle dimensioni, e quindi si è beccato una multa non indifferente. Ma Lapo Elkan va a fare un'intervista al Giornale, a pagina 23, perché è stato designato per scegliere che cosa? Gli interni, disegnare gli interni delle Ferrari. Io alla guida della Ferrari per ora penso solo a vestirla, e speriamo non in mimetico, in colore mimetico. Sta di fatto che la notizia è di ieri, qualcuno ha pensato già a una futura investitura alla possibile guida della Ferrari. Lui si schernisce un po' in questa intervista con Pierluigi Bonora, sta di fatto che racconta il Giornale, Montezemolo l'ha voluto accanto a sé a Francoforte, l'ha in qualche modo sdoganato per la prima volta dopo il sexy scandalo del 2005, quindi già c'è chi parla di un'investitura. Però dice Lapo Elkan, io lavoro con il capo del centro stile, con il responsabile marketing, un team dedicato, sono un imprenditore che con grande gioia e emozione si trova nello stand della Ferrari al salone dell'auto di Francoforte, insomma dichiarazione un po' di pragmatica così. E poi alla fine quella battuta ci vuole, senta, lei col suo Jeep Grand Cherokee mimetico ha bloccato il traffico di Milano, ha paralizzato il traffico di Milano. E Lapo Elkan risponde: sono rammaricato di quanto è successo, non era certamente voluto, ho parcheggiato il SUV dentro le strisce blu, ma non mi sono accorto delle ruote che sporgevano e hanno bloccato il tram, mi scuso per i disagi arrecati. Così Lapo Elkan intervistato sul Giornale 24 mattino. E allora eccoci alle 7:34 minuti, le notizie di attualità che trovate maggiormente sviluppate sui giornali sono la questione della manovra, come detto Il Sole vi dedica un numero monografico, oggi 32 pagine, e la questione dello scontro istituzionale, magistratura, politica, intercettazioni. Partirei da qui perché ci sono tante notizie. Beh, intanto la questione del rapporto Berlusconi magistrati di Napoli, il premier non si farà interrogare, così dice il Corriere della Sera. Ieri sapete Repubblica dava per certo l'interrogatorio tra oggi e venerdì per la questione della presunta estorsione in cui Berlusconi sarebbe solo parte lesa. Il premier non si farà interrogare, titola invece oggi il Corriere della Sera, pagina 6. Non intendo legittimare un'inchiesta condotta in modo illegale. Questo nel retroscena di Francesco Verderami, a pagina 6 per l'appunto. Questa sarebbe la versione di Berlusconi. Non intendo legittimare questa inchiesta condotta con sistemi illegali. Insomma, sono le intercettazioni che sono fuori legge. E dunque usa questa metafora calcistica Verderami, Berlusconi è pronto a fare catenaccio sulla richiesta della procura di Napoli. E così anche per il Giornale, il premier, l'illegalità l'hanno commessa i PM, Berlusconi è deciso a non incontrare i giudici, convinto che sia un trappolone, mentre a fare pressing in qualche modo sono i suoi avvocati, lui invece tiene duro e dice assolutamente non li incontrerò. E questo fa da sfondo a quello che è successo ieri nel colloquio tra Berlusconi e il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Tutti i giornali raccontano, chi in un modo, chi in un altro, i particolari di questo colloquio. Di certo tutti i giornali sono concordi nel raccontare il fatto che Berlusconi avrebbe tentato di buttare lì nel colloquio l'idea di un intervento con un decreto legge urgente per bloccare le intercettazioni, e avrebbe ottenuto il no da parte di Napolitano. Perché? Perché non se ne ravvede l'urgenza, il carattere d'urgenza tipico dei decreti legge. Intercettazioni, il colle ferma il cavaliere, così titola pagina 9 il Corriere della Sera. Il quirinalista è Marzio Breda, che racconta questo faccia a faccia. Sponde contro i magistrati, Silvio Berlusconi non ne ha trovate al Quirinale, tantomeno salvacondotti. A un certo punto il premier è passato a ventilare, o addirittura forse a minacciare, si chiede Marzio Breda, l'idea di un decreto legge per bloccare subito le intercettazioni su di lui. Allora le cose sono cambiate, l'incontro è finito dopo appena 20 minuti. È stato poi necessario un pomeriggio al cavaliere per ripensarci, consultare i consiglieri, calcolare costi e benefici di un inevitabile nuovo scontro con il colle. Ecco come sarebbe andato, insomma, ieri il faccia a faccia tra il premier e il capo dello Stato. Su questa versione però dal Quirinale assoluto riserbo dei momenti più critici, non si conferma né si smentisce nulla. Mentre per Ugo Magri il retroscena è raccontato così: stop di Napolitano al premier, nessun presupposto per il decreto. A un certo punto il capo dello Stato, di fronte alla richiesta del decreto, già ribattezzato dalla stampa decreto salva Merkel, perché è intento a bloccare le intercettazioni, nelle quali forse Berlusconi avrebbe usato queste frasi offensive nei confronti della cancelliera tedesca. Napolitano avrebbe obiettato: scusate, ma avete fatto una legge sulle intercettazioni per affrontare alla radice il problema? Che fine ha fatto? Già ci ha abbandonata da oltre un anno. E se voi stessi l'avete messa nel dimenticatoio, ha sottinteso il capo dello Stato, dove stanno i presupposti di necessità e urgenza richiesti per emanare un decreto? E dunque, insomma, ecco perché il no. Anche per il Foglio è l'editoriale di prima pagina sulle intercettazioni: Napolitano dà ascolto al cavaliere, ma il decreto no. Berlusconi ha provato a sensibilizzare, questo è il verbo usato dal Foglio, Giorgio Napolitano in quanto presidente del CSM sulla barbarie delle intercettazioni. A un certo punto ha avanzato l'ipotesi di presentare immediatamente un decreto. Un'eventualità che Napolitano, come Berlusconi probabilmente si aspettava, considerati i precedenti, ha respinto, difendendo le prerogative della magistratura. Per Repubblica il colloquio, ci sono anche dei virgolettati del colloquio che avrebbero avuto Napolitano e Berlusconi, più dettagliati, con Berlusconi che avrebbe detto al capo dello Stato: non riguardano solo me queste registrazioni, lo avrà visto, no? Ci sono anche quelle su Penati, quindi il problema non è solo mio. Da Napolitano non arriva un cenno, neppure un allora. Un atteggiamento che consiglierebbe a chiunque di fermarsi. Invece il cavaliere va avanti: bisogna bloccare tutto, questo avrebbe detto, ma sempre col condizionale, Berlusconi. Bisogna bloccare questo fango, farlo subito, stasera terrò un consiglio dei ministri, posso fare un decreto, aggiunge. Le assicuro che possono uscire cose in grado di compromettere i rapporti internazionali dell'Italia, almeno quella parte bisogna bloccarla. Ma da qui il secco no di Napolitano: non ci sono gli estremi per un decreto. Già, ma allora tutti i giornali già si chiedono, anche perché oggi è giovedì, è il giorno in cui verranno depositate le carte a Bari sulla vicenda Tarantini. Ma che cosa contengono queste intercettazioni? Beh, della Merkel si è già detto, delle ipotesi di un'espressione irriguardosa, molto irriguardosa, di Berlusconi nei confronti di Angela Merkel. Secondo Francesco Bei e Liana Milella sulla Repubblica, ci sarebbero anche scorribande, racconti delle scorribande sessuali generose di rivelazioni su una ministra, un gelidi commenti, ci sarebbero anche particolari sulla moglie di un notaio barese, dettagliati racconti sulle notti calde del premier a Palazzo Grazioli e Villa Certosa. Per il Corriere anche un po' così: da Bari in arrivo le nuove carte tra i legali del cavaliere e il procuratore Lepore a Napoli nessun accordo, e anche per Libero, eccola qui, la bomba anti-CAV è innescata. Pagina 6, la procura barese depositerà proprio oggi gli atti dell'inchiesta sulle escort e Lucia Esposito racconta appunto di che cosa conterrebbe questo, oltre al probabile, possibile insulto su Angela Merkel, che è già rimbalzato ovviamente in Germania, con i giornali tedeschi che si chiedono: per caso il presidente del Consiglio italiano ha insultato la nostra cancelliera? Questo, per esempio, titolava ieri un quotidiano tedesco importante, ma soprattutto racconta Libero: mogli di avvocati, notai, signore, fanciulle della Bari che conta, quelle che solitamente frequentano i salotti buoni della città, potrebbero essere rovinate dalla pubblicazione di queste telefonate. Di certo sui giornali trovate una telefonata che riguarda Silvio Berlusconi e la Vitola, colui che è uno di coloro che avrebbero fatto la presunta estorsione nei confronti di Berlusconi, su cui indaga Napoli. Eccola qua, l'intercettazione la trovate su tutti i giornali. La Vitola che parla con Berlusconi: dottore, senta, io sto in Bulgaria, Sofia, con un telefono di qua, se intercettano pure questo, che cazzo ne so. La Vitola, insomma, pensava di essere al riparo dall'intercettazione. E Berlusconi: hai visto che avevo ragione io? Dimmi. Sì, purtroppo, dice la Vitola. E poi ecco la frase di Berlusconi, che è il titolo un po' di tutti i giornali: non facevo riferimento, tuttavia le cose che ho successivamente letto, che non esistono, sono tutte cose che non esistono e su cui io scagionerò naturalmente tutti. Molti giornali usano proprio queste parole, Il Fatto Quotidiano titola così: io vi scagiono tutti. E poi più avanti, ecco, comunque, dice la Vitola: dottore, vabbè, io mo sono fuori a sto punto. Resta lì, risponde Berlusconi, e vediamo un po'. E poi finisce: cerchiamo di non abbandonare questo qua, dice la Vitola, probabilmente in Tarantini. Certamente, certamente. Un bacione, dottore, dice la Vitola. Bene, buone vacanze pure a lei, grazie, ciao. Questo si conclude così la telefonata. Certo, io vi scagiono tutti, ironizza per esempio il Riformista. Ecco il "ghe pensi mi" di Silvio per la Vitola, cioè il "ci penso io". Sta di fatto che arrivano, insomma, nuove intercettazioni. Qualcosa già anticipato. Oggi Repubblica, per esempio, fa un'intercettazione anche che coinvolge Daniela Santanchè. Negli atti il colloquio tra Paolo Pozzessere, direttore commerciale di Finmeccanica, e Debbie Castaneda, ex modella che aveva una consulenza con Finmeccanica. Pozzessere dice che parlando con Guido gli ha chiesto della Santanchè, che a quanto gli hanno detto ha 4-5 milioni di debiti perché si è rifatta la casa e non ha pagato i fornitori. E vabbè, poi ci sono dei commenti riguardosi di Debbie Castaneda riferendosi alla Santanchè. Lei è sempre stata una vabbè, insomma, questo, ci sono delle intercettazioni, colloqui in cui esprimono giudizi non certo positivi nei confronti del sottosegretario Santanchè. Vabbè, insomma, la questione intercettazione l'avete capita, e attualità, scontro politica magistratura. Tra l'altro alle 8.30 avremo una coppiata di direttori, non è la prima volta: Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale, e Antonio Padellaro, il direttore del Fatto Quotidiano. Ci confronteremo su questo tema. Intanto, il giorno in cui è stata approvata la manovra, quindi cose ben più importanti, ma certo che si intrecciano con l'attualità politica. Ieri, il giorno in cui è stata approvata la manovra col voto di fiducia, trovate tutto sul Sole 24 Ore. Intanto il commento, l'editoriale del direttore Roberto Napoletano in prima pagina, dal titolo "La sfiducia dei numeri, guai se l'Italia diventa lo Stato da vendere", abbiamo scritto dalle colonne di questo giornale il 30 luglio. Purtroppo è accaduto, scrive Napoletano. Anzi, è successo di peggio, è dovuta intervenire la BCE, siamo diventati lo Stato da vendere, ma scarseggiano i compratori. E poi più avanti racconta della manovra il direttore del Sole: ne è nato un articolato pesante che vale 54 miliardi, dove quasi due terzi sono nuove entrate, il restante terzo taglia la spesa, e dove non c'è grave miopia pressoché nulla per la crescita. Detto questo, però, corre l'obbligo di segnalare che l'Italia, la nostra cara Italia, ha bisogno di un sussulto etico, di un'assunzione piena di responsabilità fino alle estreme conseguenze della sua intera classe dirigente, aggredendo e sciogliendo il nodo della credibilità, che è più diffuso di quanto si pensi, ma tocca in primis la classe politica e specificamente la classe di governo e la sua capacità di azione. Servono scelte condivise, si conclude l'editoriale di Napoletano, di lunga durata, che coniughino sacrifici, equità e stimoli concreti alla crescita. L'onore e l'onere di rappresentare questo paese esigono visione, serietà, serenità. A nessuno può essere consentito di giocare oltre con il futuro dell'Italia. Alle 7:48 minuti, allora, la manovra è stata approvata, è legge dello Stato, dopo la pubblicazione ovviamente in Gazzetta, attesa per fine settimana, fa sapere il Sole 24 Ore. Tutti i dettagli li trovate in questo numero monografico di 32 pagine. Io voglio solo segnalare alcune cose. Beh, intanto, nel giorno in cui è stata approvata la manovra, a pagina 3 il Sole fa sapere che il debito pubblico italiano intanto è salito a, reggetevi, la cifra, 1.911,8 miliardi di euro, 10 miliardi in più rispetto al mese precedente. In un mese il nostro debito pubblico è aumentato di 10 miliardi di euro. Sono le stime di Banca Italia. Il rapporto debito-PIL, che è il parametro che rileva i fini di Maastricht, sarà intorno al 120% del PIL a fine anno, anche per effetto di un denominatore più modesto del previsto, intorno allo 0,06-0,08%. Ormai, insomma, da 4 mesi il debito pubblico ha ripreso a salire. Da marzo a luglio è aumentato di 43 miliardi di euro. Ripeto la cifra a cui siamo arrivati di debito pubblico, 1.911,8 miliardi di euro. Ma siccome aumenta di secondo in secondo, mentre ve l'ho detto, sarà già aumentato. Come detto, c'è il sì della Camera, ci sono le critiche molto dure arrivate ieri dal presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, racconta Nicoletta Picchio a pagina 5. Manovra tutte tasse, serve un grande piano per la crescita e senza le riforme il paese è a rischio, ha detto la presidente degli industriali. E con dunque le critiche spuntano anche le sorprese. Ebbene sì, tra l'altro critiche, devo segnalare, è curioso anche il titolo della Padania oggi, manovra medicina amara, così la Lega titola, insomma, sì della Camera, Bossi, pensioni, sistema più equo d'Europa. Ecco qui ancora Bossi che rilancia, non metteremo le mani nelle tasche delle vecchiette, ha usato questa immagine per dire che la Lega si opporrà a qualsiasi tentativo di rivedere il sistema previdenziale, perché se ne è parlato e se ne parla da giorni, la manovra è stata approvata ma sembra che ci sia la necessità di fare nuove riforme strutturali, perché altrimenti la manovra sembra già bruciata con questi saldi e con gli sforzi che l'Europa ci chiede. Sta di fatto che ritorna che cosa? Il condono. Condono e stop alle anzianità, così titola a pagina 21 il Sole 24 Ore. Le nuove proposte accolte, una è quella all'ordine del giorno di mettere un condono tombale. Cosa che l'Europa già in passato ha bocciato, quindi il Sole racconta forse potrebbe vestire i panni di un concordato di massa da legare a quanto prevede la delega fiscale nella parte in cui contempla un concordato preventivo biennale, quindi magari un condono non tombale ma appunto un concordato di massa. L'ha proposto, so già che siete pronti con l'ironia, l'onorevole Domenico Scilipoti. Ebbene sì, Scilipoti vuole il condono, titolo all'Unità pagina 10, ci mancava anche il condono. Sta di fatto che almeno quello che non c'è stato, è stato scongiurato all'ultimo momento, è quello dell'aumento del numero degli ordini professionali in Italia. Dite voi, ma come? Già c'è un dibattito sul fatto che gli ordini sono un qualcosa che possono rappresentare un'immagine vetusta delle professioni, per cui c'è chi vorrebbe addirittura abolirli. Ebbene, c'era invece un ordine del giorno, una proposta di legge che stava per passare ieri insieme alla manovra, proposta dal PDL, dalla Lega, ma appoggiata anche da alcuni parlamentari dell'Italia dei Valori, racconta il Fatto Quotidiano, per esempio a pagina 7 con Caterina Perniconi. Abolire gli ordini, meglio moltiplicarli. La casta tenta il blitz, c'era una legge per istituire 5 nuovi ordini e 20 albi, per esempio, tra questi l'albo di che cosa? Beh, dei fisioterapisti, delle ostetriche e radiologi. E invece è stato tutto scongiurato. C'è da dire che tutti i giornali riconoscono questo, il merito politico a Francesco Rutelli dell'API, che è intervenuto in aula, ha costretto i colleghi a una riflessione su ciò che stava accadendo, ha suscitato il dibattito successivo e da qui il dietro front. Tutto questo mentre ieri, lo vedrete nelle immagini che trovate anche sulla nostra pagina Facebook 24 Mattino, ci sono stati degli scontri davanti a Montecitorio, fumogeni, petardi, cariche, vedrete foto di gente anche insanguinata, ci sono stati scontri con la polizia, ci sono stati insulti e gavettoni all'ex ministro Ronchi, aggredito prima verbalmente, poi con un lancio d'acqua in faccia. Questo mentre stava passeggiando, è uscito davanti a Montecitorio, qualcuno dice ha avuto l'imprudenza di tentare di dialogare, insomma, con queste persone che non erano molto disposte a dialogare, e gli è arrivato qualcosa in faccia. Eccolo qui il mediatore Ronchi, preso a secchiate, racconta Libero. Gavettoni, insulti all'ex ministro che pare abbia risposto: siete la vergogna dell'Italia, cialtroni di merda. Questo ai manifestanti che l'hanno insultato e aggredito. In ogni caso, ne parleremo di questo, anche degli scontri, dopo il giornale radio. Mattino. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Allora parliamo di attualità politica, l'approvazione della manovra nel giorno in cui i sindaci oggi d'Italia scioperano. Non sciopera il sindaco di Varese della Lega, Attilio Fontana. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Non sciopera, contrariamente a quanto detto. Non sciopera perché il suo partito l'ha richiamata all'ordine, sindaco, è così. Il Consiglio federale ha emanato un provvedimento, il Consiglio federale che è un po' il vertice politico del mio partito, ha emanato un provvedimento nella quale dichiarava che i sindaci della Lega non avrebbero dovuto partecipare alle iniziative dell'ANCI. E lei si è adeguato, insomma, ci sono già le ironie, si parla di Lega Partito Caserma, come il CUS sovietico, insomma. Ma questi sono commenti che mi lasciano indifferente. Io credo di dover, per una questione di serietà, rispettare quelli che sono i dettati che provengono dal mio partito. Io sono stato eletto grazie al mio partito e quindi è chiaro che devo, mi sembra che sia, ripeto, una questione di assoluta serietà, sennò si infrangerebbero le regole fondamentali. Però ho dovuto anche prendere atto di questo fatto e per un'altrettanta questione di serietà ho rassegnato le dimissioni dal mio incarico di presidente regionale dell'ANCI, perché ovviamente non potevo lasciare i miei colleghi soli in questa protesta. Cioè, lei si è dimesso dall'ANCI regionale, perché dalla presidenza dell'ANCI regionale, perché visto che i suoi colleghi invece scioperano, lei no. Ma però voglio dire, è in una situazione un po' combattuta, perché lei mi dica cosa ne pensa di questa manovra. Adesso tanto non sciopera, ma mi dia un aggettivo su questa manovra. Ma io su questa manovra ribadisco tutti i commenti negativi che ho fatto in questi mesi, in questi giorni, queste ultime settimane. Non penso che la manovra vada nella direzione giusta, soprattutto nella parte in cui penalizza eccessivamente i comuni che hanno subito nelle ultime quattro finanziarie continui e costanti tagli soltanto indirizzati nei loro confronti. Vede, oggi si dice ma anche i ministeri hanno subito dei tagli. È vero, ma per i ministeri sono i primi tagli, per i comuni sono invece gli ennesimi tagli. Sì. Le dico di più, il comparto dei comuni, con tutti i difetti che può avere questo comparto, negli ultimi quattro anni è riuscito a ridurre il proprio indebitamento, a migliorare il proprio saldo di ben 3,5 miliardi di euro, mentre invece il resto del comparto della pubblica amministrazione ha peggiorato di oltre 30 miliardi. Quindi, se dobbiamo dare un aggettivo a questa manovra, cosa le viene in mente? Ma è secondo me estremamente ingiusta nei confronti dei comuni, ma vede, poi la nostra contestazione non è una contestazione di carattere carattere sindacale, perché quei soldi che non ci vengono trasferiti o che non potremo spendere, facendo riferimento al patto di stabilità, sono soldi che erano destinati ai nostri cittadini, erano destinati ai servizi, erano destinati ai più deboli, erano destinati alle mense scolastiche, erano destinati alle scuole. Capito, ma qualcuno dice, sindaco, voi dicendo così adesso magari tagliate, prendendo a pretesto questa cosa della manovra, poi pagano i cittadini. Non è che si può ridurre qualche spreco da che qualche altra parte e garantire le mense? Questa è una delle poche cose che mi fa imbestialire, perché io credo che mettere sullo stesso piano la cosiddetta casta e i sindaci sia un'offesa peggiore che se lei mi avesse insultato. L'offesa in maniera grave, no, le ho fatto questa domanda. Invito lei, che presumo abbia anche delle competenze economiche, a vedere i bilanci del comune di Varese. E poi dico a lei di spiegarmi dove io posso tagliare, quali risparmi posso effettuare, dove posso andare a recuperare i soldi per quei servizi che si rischiano di dover tagliare. Cioè, è una affermazione, mi consenta, abbastanza assurda. Lei crede che io sarei disposto a cuor leggero a tagliare dei servizi ai miei cittadini quando io sarò visto come responsabile? Perché vede, l'80% dei cittadini non sa nulla di quello che avviene a Roma, non si interessa di quello che avviene a Roma, però sa quello che fa il proprio sindaco. Quindi se io taglio la mensa, guardi che nessuno andrà sotto Montecitorio a lamentarsi. Però magari non la voteranno più, magari lei dice, la faranno pagare. Del votarmi non è l'ultimo dei problemi, anche perché sono stato eletto rieletto per la seconda volta 3 mesi fa, quindi non potrei, anche volendo, essere nuovamente candidato, quindi anche questo è un luogo comune da sfatare. Quello che sto dicendo lo dico proprio per difendere i miei cittadini, per cercare di tutelare gli interessi dei miei cittadini. Se poi si vuole cercare di fare di tutta l'erba un fascio, mettere tutta la classe politica sullo stesso piano e sullo stesso livello, è un'operazione sicuramente che da un punto di vista giornalistico può funzionare, da un punto di vista di informazione credo che sia estremamente sbagliato. Senta, c'è una grandissima differenza. Lei, secondo lei, rischiava davvero l'espulsione, avesse dovuto scioperare insieme al suo collega Tosi di Verona? Ma anche questo non è il nocciolo del problema, non è questione di rischiare o meno l'espulsione, non è una scelta determinata dalla paura di essere espulso, è una scelta determinata dalla serietà di dover rispettare quelli che sono le indicazioni che provengono dal... Ma guarda che non in tutti i partiti è così, anzi spesso si parla, per quello si dice partito caserma, nel senso che c'è un vertice che decide e gli altri si adeguano. La differenza è che forse gli altri non sono più dei partiti. Ecco, beh, questa è già una considerazione politica mica male, insomma, cioè la Lega è l'unico vero partito, le dice, mentre gli altri cosa sono? La Lega è l'unica entità politica che ha ancora un rapporto con la gente, che fa la sua politica sul territorio, che nelle feste incontra migliaia di persone, che settimanalmente incontra i propri militanti, che ascolta quello che proviene dalla base. Mi sembra che siano delle valutazioni che non molti altri partiti di questo paese possono vantare. L'ultima battuta, sindaco, l'hanno paragonata anche col suo obbedisco a Garibaldi, insomma, cioè, anche questo magari è non un insulto, non è un paragone che le piace. No. Mi piace tantissimo, no? Diciamo che non è proprio il tipo di eroe al quale guardo. No, Fontana come Garibaldi proprio no, insomma, un leghista doc come Garibaldi effettivamente questa no. Vabbè, un po' ha obbedito però, insomma, ha obbedito a una richiesta, ecco, questo sì. Certamente. Va bene, intanto la ringrazio, sindaco, lei, buona giornata, lei, sindaco di Varese. Attilio Fontana della Lega, che non sciopera, ci ha spiegato i motivi, contrariamente a quanto aveva detto nei giorni scorsi, perché insomma si è adeguato a quello che il suo partito gli ha chiesto di fare. Allora, la manovra è stata approvata, c'è lo scontro istituzionale, politica, magistratura che va avanti da decenni, ma che torna a livelli molto molto roventi. Dell'attualità politica ne parliamo, gli scontri davanti a Piazza Montecitorio. 24 mattino. E allora eccoci qua alle 8:35 minuti, parliamo dell'attualità politica il giorno dopo l'approvazione della manovra in via definitiva, tra l'altro notizia delle 7:20 di stamattina in agenzia, il capo dello Stato Napolitano avrebbe firmato il decreto della manovra. Ma poi ritorna, insomma, prepotente lo scontro politica-magistratura, per la verità mai sopito in Italia, ma qualcuno azzarda a dire siamo veramente allo scontro finale, con le nuove intercettazioni, in parte oggi pubblicate, in parte potrebbero essere depositate a Bari oggi, dovrebbero essere depositate e potrebbero finire sui giornali nei prossimi giorni. Ne discutiamo con due direttori, il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, buongiorno e ben ritrovato Sallusti. Buongiorno. Così come il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Allora, Sallusti, ha fatto bene, secondo quanto si legge sui giornali, ieri Berlusconi a chiedere al capo dello Stato, per la verità non ascoltato, un decreto urgente per bloccare queste intercettazioni? È quella la via e dovrebbe essere così? Beh, sì, perché forse in queste ore è molto più chiaro, perché nei mesi scorsi ci fu quello schieramento così ferocemente contrario a una legge che regolasse l'uso delle intercettazioni. Beh, forse già qualcuno immaginava cosa si poteva fare con le intercettazioni selvagge, cioè fare quello che non si era riuscito a fare né nell'aula del Parlamento né nell'aula giudiziaria, e cioè mettere veramente il Presidente del Consiglio in grande difficoltà. Questo è lo schema, secondo lei? Cioè non è un tentativo di abbattere Berlusconi per via come? Gossipara, giudiziaria gossipara? Beh, è un gossip mediatico giudiziario, poi dal punto di vista giudiziario addirittura stiamo parlando di una parte lesa, neanche di un imputato, per cui ancora una volta è ovvio che ciò che uno dice al telefono con chi parla, poi come dire, alcune volte può essere imbarazzante vederselo pubblicato sui giornali, anche se poi non so se ne parleremo nel merito della questione dell'ultima intercettazione. Sì. La versione che Berlusconi dà dei fatti coincide esattamente con quelle intercettazioni. Sì, ma ne parliamo sicuramente perché è sui giornali, no? La telefonata, certo, di Lavitola: dottore, io sto in Bulgaria, sto a Sofia, esordisce così Lavitola, certo. E tra l'altro dice con un telefono che se intercettano pure questo, che cazzo ne so. E Berlusconi, ma guardi che quello delle intercettazioni, io mi capita di parlare col Presidente del Consiglio, è una delle prime frasi che dico anch'io, dico Presidente, salutate, cosa fate? Salutate, come si fa spesso? Saluti, saluti. Le telefonate iniziano con attenzione che il telefono è intercettato, anche questo non credo che ci sia da meravigliarsi, ma non perché uno debba o stia per dire delle cose sconvenienti, è anche un modo di esorcizzare la telefonata. Però diciamo la frase che è diventata anche il titolo un po' di vari giornali, per esempio il titolo del Fatto Quotidiano di oggi, io vi scagiono tutti, è questa, che Berlusconi dice, effettivamente dice più avanti, non so quali informazioni vi siete detti tra di voi, immagino Lavitola e Tarantini, comunque insomma io quando posso aiuto, quando non posso non aiuto, quando aiuto sono contento di poter aiutare, tutto qui, sono cose che non esistono, su cui io scagionerò naturalmente tutti. Padellaro, allora, a parte che appunto Sallusti dice questa versione ora sbobinata e letta sui giornali è la conferma di quanto Berlusconi ha sempre detto, cioè aiutato una famiglia in difficoltà, e questa vabbè è una versione che verrà valutata. C'è la questione però delle intercettazioni, ha fatto bene secondo lei ieri Berlusconi a chiedere a Napolitano di bloccarle con un decreto? Ha fatto bene, ma viene quasi da sorridere se non ci fosse in atto una sorta di dramma nazionale, perché abbiamo un Presidente del Consiglio che parla con una banda di ricattatori, un Presidente del Consiglio ricattato, è evidente che quella è la telefonata di un ricattato che tiene buoni i ricattatori, poi ne parleremo. È l'ultimo tentativo disperato di salvarsi, ma ormai non c'è più niente da fare, Berlusconi è finito, bisogna che tutti, ma non soltanto per motivi di faziosità politica, ma credo veramente per il bene del paese, anche la destra se ne renda conto. Berlusconi è finito, e portare avanti questa specie di agonia fa male a tutti, fa male a lui che, devo dire, ormai è una macchietta, mi dispiace dirlo perché è anche un personaggio con delle qualità e poteva fare molto meglio. Fa male alle istituzioni che ormai non sanno più cosa fare. Napolitano non è un personaggio, non è un presidente della Repubblica di parte, lo hanno riconosciuto tutti, è un presidente della Repubblica molto equilibrato, ma se gli risponde come dicono i giornali gli abbia risposto, cioè Berlusconi lasci perdere su sta storia delle intercettazioni, non si possono fare decreti per bloccare le cose che lei ha detto al telefono, che poi è abbastanza assurdo che sia Berlusconi a dire ho detto delle cose talmente gravi, ma è una cosa fantastica, cioè lui va dal Presidente della Repubblica e gli dice guardi Presidente, io ho detto delle cose talmente gravi a livello internazionale, no? Ma no, ma voglio dire la frase sulla Merkel la versione sarebbe bisogna bloccarle, ma no, la versione è dai giornali è ho detto delle cose private, uno sfogo magari, non lo so, questa potrebbe essere la versione, cioè sì, io posso aver detto delle cose che non c'entrano nulla dal punto di vista penale, ma che possono offendere qualcuno. Ma ragioniamo, usciamo un attimo fuori da questi aspetti, sì. Cioè lui va dal Presidente della Repubblica a dire io ho straparlato, poi con chi? Con questi personaggi, con Tarantini, ma che ci fa un Presidente del Consiglio al telefono con Tarantini e Lavitola? Ma insomma, sentiamo su questo. Voglio dire una cosa, poi finisco. Sallusti è stima dell'intellettuale per Sallusti, che è stato un eccellente cronista giudiziario. Vorrei chiedere a Sallusti se avesse visto quell'intercettazione non riferita a Berlusconi e alla Vitola, ma a due personaggi qualsiasi, avrebbe pensato quello che pensano tutti, un ricattato che parla con vediamo dei ricattatori. Vediamo un po', Sallusti, è una difesa a oltranza quella che lei fa, oppure anche il fatto che Berlusconi vada a dire guardi Presidente, se escono delle cose del genere potrebbero imbarazzare l'Italia, questo almeno la ricostruzione dei giornali, e quindi è come un'ammissione di dire che ha detto delle cose con Tarantini che non vanno bene. Non è una difesa a oltranza, è una difesa dei principi di libertà e di legalità. Che non dimentichiamoci che la legittimità di queste intercettazioni è tutto che c'è, anzi la tesi prevalente, la tesi dei giuristi, dei giornalisti, che siano intercettazioni illegali, perché pur essendosi accorti di essere di fronte del Consiglio, le intercettazioni sono continuate, sono state scritte e allegate a degli atti senza l'autorizzazione della Camera. Cioè i magistrati stanno commettendo una illegalità. C'è una seconda illegalità, che è il fatto che in maniera lampante la procura pure in un attimo per fare quelle intercettazioni per indagare su questo caso, perché i reati si sono svolti tra mari, eventuali reati però questo, su questo, a parte che il cellulare un po' non so se è intercettato, ma va e viene un po' la linea Sallusti, però abbiamo capito, sulla competenza però di Napoli anche qui il procuratore Lepore proprio per questi microfoni ha detto abbiamo chiesto il vaglio del GIP, è passata al GIP, atteniamoci, poi magari il GIP ha sbagliato, però atteniamoci a quello che è lo stato degli atti. Lei però dice è una difesa di un principio, il principio della libertà di voler parlare, di poter dire liberamente anche magari con persone che sono poco convenienti, il Presidente del Consiglio dialoghi con Tarantini, però parla con chi vuole e dice quello che vuole, non deve essere spiattellato sui giornali. Padellaro, questo glielo devo chiedere, ma il fatto di voi siete stati i primi sul Fatto Quotidiano a scrivere quello che Berlusconi avrebbe detto della Merkel, che diciamolo, tanto ormai è stato sdoganato, avrebbe dato della Merkel della culona inchiavabile. Perché l'avete fatto? Cioè, lì in quel momento era un gossip, no? Cioè, era un pourparler, era una voce di corridoio, non c'era niente di certo, come di certo non c'è niente per il momento. Allora, intanto non era una voce di corridoio, ma già alcuni giornali autorevoli, tra i quali La Stampa, avevano detto che c'era una frase durissima, volgarissima di Berlusconi sulla Merkel. Sì, Iena poi, aveva adombrato una possibilità, però sì, non aveva usato le parole. E diciamo. Poi su Facebook c'è stato un impazzimento di notizie, di voci su questa. Non è che ce la siamo inventata, l'abbiamo presa da qualche parte, no? Cioè non è che ci siamo messi in una stanza e abbiamo detto che cosa potrebbe aver detto. Era una frase che girava vorticosamente, se ne parlava in Parlamento e noi l'abbiamo data così, abbiamo detto di questa cosa si parla e questa riferendola come un gossip, una battuta, una voce, ma soltanto come questa. Però rischia di fare un qualche danno. Cioè, in Germania ovviamente i giornali ora titolano: ma ha davvero detto questa cosa? Cioè, è un qualcosa che anche dal punto di vista internazionale poi ci pone sotto una luce non sì, positivista. Ma se andate a vedervi tra le righe quello che hanno scritto anche giornali importanti, la trovate questa frase. Noi gli abbiamo dato un rilievo particolare, ma la frase in quanto tale è stata pubblicata. E voi avete messo il titolo, diciamo, una cosa in più, l'avete messo in prima pagina. Sentito anche i petardi. Questo è successo ieri alla Camera, di fronte alla Camera. Qualcuno ha contestato, non erano in molti, un po' le solite minoranze rumorose, però certo è una manifestazione significativa o no. Prima di tornare sulla questione politica e magistratura, Sallusti, chi sono questi che hanno manifestato? Sono dei pazzi scatenati oppure c'è da stare attenti? Ci sono dei segnali che non sono da sottovalutare? No, questa è un'altra delle bufale mediatiche che vengono spacciate in questi giorni, così come si è cercato di far passare il principio che, siccome Pisano, un ex ministro frustrato, non era d'accordo sulla manovra, che PL si fosse spaccato, perché si è visto ieri il voto. Sono 300 teppisti, no global, antagonisti, che hanno fatto la solita violenta gazzara fuori da Montecitorio. Le immagini di questi 300 signori, che non risulta che abbiano, che rappresentino il paese, lo stato d'animo del paese, hanno fatto il giro del mondo e sembra che l'Italia sia una nuova Grecia, con milioni di gente, persone in piazza a protestare contro la manovra. È un falso mediatico, come è un falso Pisano, come è un falso l'inchiesta di Napoli in corso. A proposito dell'inchiesta, ma se lei dice giustamente è parte lesa Berlusconi, come è stato scritto, ma perché non va dai magistrati? Cioè, proprio in maniera, perché teme davvero questo trappolone? Che trappolone possono fare? Mica possono arrestare il presidente del Consiglio, voglio dire. Che trappolone può temere? Beh, il trappolone è che la parte lesa si trasformi, se dal punto di vista giudiziario, non sono un tecnico della tecnica giuridica, basta che una frase di Berlusconi non coincida con quella di La Vittoria, si trasforma in indagato, e i magistrati possono ipotizzare una falsa testimonianza e trasformarla in indagato. Mi permetta una battuta, Sallusti, non sarebbe la prima volta che Berlusconi si trova indagato in Italia. No, cioè, se la caverebbe benissimo, sarebbe la 24esima volta, ma forse uno la 24esima è anche stanco. Anche perché poi non dimentichiamoci che il governo del 94 cadde soprattutto su un avviso di garanzia che poi risultò infondato, venne assolto Berlusconi per quel tipo di reato. Lui fu assolto, altri no. Comunque, insomma, dice teme questo trappolone. Padellaro, chiedo anche a lei sul trappolone e su invece gli scontri alla Camera. Effettivamente era una minoranza, cioè una sparuta minoranza, però come interpretare questi scontri? Sì, io sento malissimo quello che dice Sallusti, sì. Purtroppo. Beh, comunque dice sugli scontri che erano dei facinorosi, sì, insomma, dei teppisti, minoranza di 300 sì, no globo. No, ma certo non si va a manifestare in quel modo davanti al Parlamento, in nessun luogo, e quindi non è evidente che quegli scontri non dovevano avvenire. Il problema è un altro. Io non credo che la situazione in Italia sia come quella della Grecia. Fortunatamente c'è un clima diverso ancora. Il problema è un altro, mi sembra che lo diceva lei, e se la tensione continua ad aumentare, cosa può succedere? Speriamo che non succeda nulla. Il problema è che, però, a proposito del falsi mediatici, ecco, da quello che ho capito, non vorrei aver capito male perché ripeto la voce di Sallusti, sì, la sento bassa. Dice anche l'inchiesta è un falso mediatico. Sì, no, non si può andare avanti con questo ragionamento, è tutto un falso, sono falsi gli scontri, è falsa le intercettazioni, sono false le frasi attribuite a Berlusconi. Cioè, non viviamo in un mondo virtuale, viviamo in un mondo purtroppo reale, Viviamo in un mondo reale dove un Presidente del Consiglio, che è ormai inutile descrivere nelle sue gesta, governa un paese dentro una crisi gravissima, lo possiamo dire questo. Allora, io penso, siccome di questi argomenti purtroppo stiamo parlando da mesi se non da anni, io penso che ormai per uscire da questa specie di incubo, e che sta portando il paese in una situazione, non dico greca, ma insomma lì vicino, l'unica strada maestra è quella delle elezioni anticipate, anche per dare al centrodestra, che rappresenta la metà del paese, una nuova guida, perché io non capisco per quale motivo la classe politica del centrodestra, dove ci sono esponenti di qualità, io non ho particolare stima del ministro della giustizia Alfano, ma penso che Alfano, come leader del partito, possa andare bene. Potrebbe essere un segno di rinnovamento. Maroni nella Lega, insomma, c'è una generazione di nuovi, chiamiamoli così, anche se non sono nuovissimi, che resta bloccata nel centrodestra fino da questo perché personaggio c'è Berlusconi. Ormai patetico. Non capisco perché, ho finito, perché si continui a difendere la figura di un uomo finito politicamente e non si dia spazio ad altri che potrebbero forse guidare il centrodestra in maniera più degna. Sallusti, io ho 20 secondi, devo chiudere, ma Berlusconi è finito secondo lei? È finito. Qui siamo addirittura al paradosso che il direttore di un giornale di opposizione vuole decidere il leader del centro. No, vabbè, dice che perché Alfano può essere. Sì, certo, per dire che come rinnovamento. In democrazia di solito il leader lo eleggono gli elettori, non i direttori dei giornali di opposizione. Berlusconi è in grande difficoltà, forse come non l'è mai stato. L'hanno già dato per morto politicamente in 18 anni almeno una decina di volte, di solito gli porta bene celebrare il funerale anzitempo, vediamo nei prossimi giorni. Intanto vi ringrazio con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. Non abbiamo dato agli ascoltatori, erano tanti, ci avete chiamato, è vero, ma insomma rimediamo nei prossimi giorni, l'attualità è questa, il tempo anche corre, stringe. Andate tutti sulla pagina Facebook 24 Mattino, dite la vostra lì e lì vi risponderemo, poi vedo che vi parlate tra di voi, è bello, una community, va bene questo termine? Va bene, una community. Allora, grazie Alessandro Longoni in redazione con Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè, l'alpino milanista che oggi gode per la sconfitta dell'Inter, in regia. Allora, la linea Oscar Giannino, ci troviamo domani alle 7:20.